I lavori di domani di Anna Marino. Come si formano e dove si trovano anche adesso online le figure professionali specializzate nella digital innovation e nell'industria 4.0 in video mapping, animazione 2D e 3D, event and sound design, modellazione stampa in 3D, realtà aumentata e virtuale? Si sta evolvendo anche il settore formazione sulla digital fabrication e innovazione tecnologica digitale, rivolta alle nuove professioni per non essere più in presenza, ma anche virtuali e a distanza e da casa. Per formare professionisti che sappiano stampare in 3D anche da casa, infatti, o realizzare il disegno degli occhiali di nuova generazione sempre dal proprio domicilio. In futuro questo velocizzerà anche i processi in azienda grazie alle nuove professioni dell'innovazione tecnologica e digitale, e noi chiediamo quali sono quelle più gettonate a Salvo Trovato, che si occupa della formazione di queste figure anche online. Il mondo della digital fabrication. Cosa intendiamo per digital fabrication? Tutto quel mondo che ha a che fare col mondo della modellazione 3D e della stampa 3D, ovvero queste nuove realtà che ormai sono sempre diventate molto più popolari, soprattutto grazie a varie realtà. Faccio un esempio pratico: durante il coronavirus, la realtà per cui io collaboro, che non è solo l'Istituto Lumen ma anche Shapewood e FabLab, ha contribuito a realizzare le valvole respiratorie per la protezione civile e per la Croce Rossa. Quindi questo per dire che il mondo della digital fabrication è anche sempre di più si sta aprendo a nuovi orizzonti, non solo quelli del design, che erano quelli da dove principalmente parte il mondo della fabbricazione digitale, ma anche nel settore del medicale. Quindi di conseguenza ad una visione futura di nuove professioni, sicuramente il mondo della digital fabrication e dell'innovazione tecnologica digitale. Qualche nome? Sono 2D e 3D, realtà aumentata virtuale, video mapping, sono tutte quelle realtà. Esempio, faccio un esempio pratico: il video mapping è quella realtà che noi vediamo, quelle visioni che vediamo nei palazzi architettonici. Era partito come un qualcosa diretto esclusivamente per installazioni o teatro, adesso invece da anni che viene sempre più utilizzato per il mondo del marketing. Ma anche il 3D, il 2D, che cosa sono, che differenza c'è in queste professioni? 2D e 3D, per quanto riguarda l'animazione, viene molto utilizzata nel mondo dei videogiochi, nel mondo di tutto quello che a livello visual art ti permette di poter dare un effetto innovativo come quello del 3D, che a volte noi andiamo a vedere anche al cinema. Per quanto riguarda la realtà aumentata e virtuale, sono tutte quelle realtà che in questo momento vengono, soprattutto in questo momento, vengono molto utilizzate, perché io tramite un cellulare che avvicino a un monitor di un computer, io grazie alla realtà aumentata riesco a vedere dei contenuti nel mio cellulare che nel video invece realmente non vedo. Esempio, questa è stata una realtà in questo periodo particolare di emergenza dove tutti stiamo lavorando da casa o con il computer, è stato utilizzato da diverse aziende per dare ai propri manager delle informazioni e contenuti ulteriori rispetto al video classico che loro vedevano nel computer. E quali professioni sono legate, insomma, a queste tecnologie? Allora, diciamo che sicuramente per quanto riguarda la realtà aumentata, cioè tutto quello che riguarda l'innovazione tecnologica digitale, allora una formazione di informatica sicuramente è bene accetta. Premessa, queste sono realtà che negli anni si sono, diciamo, evoluti, e quindi molte volte l'evoluzione in questo settore significa anche semplificazione. Quindi di conseguenza anche chi non ha realmente una preparazione del settore riesce comunque a ottenere degli ottimi risultati, perché ci sono adesso dei software, esempio ZBrush, Maya, che ti permette di ottenere delle animazioni molto professionali fatte anche da chi non ha ancora una grandissima esperienza. I consigli di base, di formazione, insomma, per chi vuole approcciare a tutte queste specializzazioni: esperto di video mapping, esperto di animazione in 2D e 3D, esperto di event and sound design, esperto di modellazione stampa 3D, di realtà aumentata virtuale, ma soprattutto mi chiedo e ci chiediamo se sono professioni gettonate, nel senso che sono anche ben remunerate vista la specializzazione che richiedono. Assolutamente sì, soprattutto soprattutto nel settore di modellazione 3D e stampa 3D. Faccio sempre un esempio pratico: abbiamo, a parte l'Istituto Numen, abbiamo anche il Fab Lab e ShapeMode. Tutte e due le realtà, e praticamente cose, il Fab Lab è stato il primo Fab Lab che è nato nella città di Milano, grazie anche alla Fondazione Mike Bongiorno. ShapeMode invece si occupa di rivendita di stampanti 3D. Ecco, l'Istituto Numen, che è nato 4 anni fa, è nato proprio da una reale esigenza di mercato. Da chi ci comprava la stampante 3D dice: benissimo, io ti ho comprato la stampante 3D, ma non è un forno, è un prodotto che io devo saper usare o avere qualcuno che lo sappia usare. Hai tu del personale da mandarmi, che io lo voglio assumere perché non ho nessuno che conosce questi macchinari? Quindi c'è una grande richiesta di queste professionalità, sono molto gettonate perché sono remunerate sopra la media e diciamo, lei, per formare, insomma, per dare questa formazione, dove si è formato a sua volta? Un percorso un po' particolare, perché io ho fatto il discografico per 15 anni. Quando poi la musica non mi dava più quelle soddisfazioni che volevo, ho iniziato a lavorare nella formazione per la moda per altri 12 anni, e 4 anni fa incontrai Salvatore Saldano, che è quello che insieme alla Fondazione Mike Bongiorno aprì il Fab Lab, che mi fece scoprire questo mondo. Quindi io mi sono avvicinato a questo mondo come Alice nel Paese delle Meraviglie. Ho capito che questa realtà, la modellazione stampa 3D, ci permetteva e mi permetteva di dare luce a tutti quei progetti che io avevo sempre lasciato nel cassetto. Il fatto che i software si sono evoluti e quindi si sono semplificati hanno permesso anche a me, persona che arrivava da tutt'altro settore, di inserirmi in questo settore acquisendo quella formazione che mi serviva per poter poi realizzare prodotti o contenuti. Questo vuol dire che non bisogna mai fermarsi nella formazione, soprattutto in questo momento anche di emergenza, andare avanti. Ecco, qualche consiglio sulla formazione online? Allora, sicuramente il percorso della Digital Fabrication, che quindi comprende tutta la conoscenza dei software di modellazione 3D. Quando dico parlo al plurale perché ci sono diversi software che un professionista deve acquisire, perché ogni software ti permette di poter realizzare quel prodotto con quella particolarità che tu vuoi dare. Nello stesso momento la conoscenza della stampa 3D significa che tu ti puoi permettere di realizzare qualsiasi prodotto. Faccio un esempio, visto che prima parlavamo di moda: un ufficio stile, come un qualsiasi agenzia o azienda che ha bisogno di realizzare un prototipo di qualsiasi prodotto, lei si immagini che la stampa 3D se lo può realizzare. Ok? Quindi io posso andare dal cliente non più facendo vedere il disegno grafico di quegli occhiali, di quelle scarpe, di quel vaso. Io vado dal cliente a portare il prodotto, ovviamente il prototipo, però già stampato. Questi sono esempi pratici di come le piccole e medie imprese, come le grandi imprese, come tutti i settori di qualsiasi dimensione siano, abbiano necessità di queste figure. Voi che cosa fate per incentivare i nuovi lavori? Andiamo a creare una formazione fatta con docenti che sono esclusivamente professionisti del settore. Quindi io insegno quello che faccio di lavoro tutti i giorni. Abbiamo anche dei laboratori dove abbiamo delle stampanti 3D di ultima generazione, il famoso learning by doing, cioè impari facendo. Di questi 42 corsi noi ne abbiamo selezionati 12, perché erano gli unici corsi che potevano essere sostenuti in live streaming. Io posso fare la modellazione 3D di un prodotto anche a casa, non ho bisogno. Io l'importante è che abbia un computer e un software adeguato per modellare in 3D. Poi, una volta che ho creato la modellazione 3D, giro il file all'azienda che ha in casa la stampa 3D che mi permette di realizzarlo. Quindi questa figura professionale di cui stavamo parlando, diciamo al 70%, è una professione che io posso gestire anche tranquillamente da casa. Anche arruolati online? In questo momento noi a livello online abbiamo presentato questo corso di occhiali, dove praticamente si sono iscritti diversi professionisti che in questo momento erano a casa, principalmente ottici, che arrivavano quindi dal settore ottico, che però non avevano la capacità di modellare in 3D o di progettare un paio di occhiali, perché non per forza io che faccio l'ottico so disegnare gli occhiali, ok? Le faccio un esempio: noi abbiamo dovuto far partire 3 sessioni, perché c'è stato in questo momento, col fatto che tutti eravamo a casa, diversi professionisti che hanno colto questo momento per formarsi ulteriormente utilizzando queste tecnologie. Quindi di conseguenza io da casa posso cominciare a imparare a modellare, a disegnare un paio di occhiali tranquillamente. Si può dire che il digitale trasforma il problema in opportunità, anche adesso. Anche adesso, e soprattutto in questo momento che ne abbiamo un po' di bisogno, visto un po' quello che è successo e le situazioni lavorative che in questo momento hanno avuto, diciamo, un momento di defiance. Questo è un po' nel nostro DNA italiano, sappiamo improvvisarci e quindi trovare sempre, diciamo, il valore aggiunto delle cose.